Non è una data casuale, giovedì 18 settembre, in particolare i giorni che vanno tra il 18 e il 21 settembre prossimi segnano il termine del periodo concesso dalle Nazioni Unite in seguito alla votazione di una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 settembre dell'anno scorso, quindi il 2024, perché Israele ponesse fine all'occupazione illegale dal punto di vista del diritto internazionale dei territori palestinesi e l'implementazione di pratiche di apartheid all'interno dei territori occupati. Quindi è in questa data simbolica ed importante proprio dal punto di vista del diritto internazionale che la società civile palestinese ha lanciato una grossa campagna globale di mobilitazione che si chiama Disrupt Complicity in Genocide, proprio tra il 18 e il 21 settembre prossimi. L'iniziativa che con un gruppo di docenti Unibo attivi da tempo sul tema della solidarietà con la Palestina abbiamo pensato di lanciare proprio si colloca all'interno di questa cornice di mobilitazione globale più ampia, quindi è un modo per rispondere all'invito che ci viene dalla società civile palestinese a mettere in atto delle azioni di mobilitazione che scardinino la logica della complicità con il genocidio in corso a Gaza in questo momento. Ora, questo cade anche in una fase, la fase più drammatica in cui proprio assistiamo all'accelerazione e al compimento del progetto di eliminazione della popolazione della striscia di Gaza. Proprio questa notte è cominciata il piano finale di occupazione della striscia con l'ingresso delle forze armate israeliane nella città di Gaza, che in questo momento è stata occupata già per il 40%, sottoposta a bombardamenti incessanti. La popolazione sta cercando di riversarsi verso sud, quindi lontano dalla città, ma la situazione è drammatica in una maniera difficilmente descrivibile, insomma. Se a Gaza sta avvenendo per mano militare, stiamo vedendo anche una politica simile in Cisgiordania con i nuovi insediamenti. Il pretesto è la risposta al riconoscimento della Palestina da parte di stati europei, ma in realtà appunto possiamo pensare che fosse un piano già premeditato quello del governo israeliano. Sì, tra l'altro si parlava appunto prima di questa risoluzione votata a maggioranza dall'Assemblea Generale il 18 settembre scorso, il 2024. Non solo Israele non ha messo fine all'occupazione, quindi non ha esaudito la richiesta della comunità internazionale, ma al contrario ha veramente accelerato la sua azione di pulizia etnica, di eliminazione della popolazione a Gaza, ma anche di pulizia etnica in Cisgiordania, vessazioni crescenti nei confronti appunto dei palestinesi residenti in Cisgiordania. È cresciuto in maniera esponenziale il ritmo delle demolizioni delle case, dell'appropriazione dei territori. È cosa nota e recente anche la presentazione proprio pubblica di un piano che è l'E1 per l'espansione, il più grande progetto di espansione di edilizia di insediamento in Cisgiordania, che di fatto porterà proprio all'annessione della Cisgiordania, quindi diciamo suggella quel progetto di giudaizzazione della Cisgiordania che è così caro, insomma, centrale alla visione dell'estrema destra religiosa ultranazionalista che in questo momento comanda Israele. Cosa succederà in piazza Scaravilli giovedì? Giovedì in piazza Scaravilli facciamo un appello a tutti, a tutte le componenti della comunità di Unibo, quindi ancora una volta tecnici amministrativi, studenti, studentesse, per chi insegna, quindi per i docenti, ad uscire dalle aule alle ore 13, ritrovarsi tutti in piazza Scaravilli, dove ci sarà appunto un presidio e poi un momento di assemblea generale, di assemblea aperta, dalle ore 17, prima di convergere verso piazza Nettuno, dove alle 18 invece si terrà la manifestazione che è stata chiamata in preparazione poi dello sciopero nazionale del 22 settembre prossimo. E quello che faremo durante l'assemblea aperta sarà chiedere alla governance del nostro Ateneo di mantenere fede ad una serie di impegni presi il giugno scorso, quando appunto una mozione di condanna assolutamente condivisibile anche nei contenuti e nel tono viene passata dal Senato accademico, una mozione con cui Unibo non solo condannava in maniera netta le violazioni dei diritti umani del territorio del diritto internazionale ai danni dei palestinesi a Gaza, quindi prendeva una posizione netta contro la violenza dello Stato israeliano sui palestinesi, ma anche si impegnava a astenersi da ogni collaborazione istituzionale con università israeliane con cui esistessero rapporti in essere, enti aziende del complesso bellico industriale israeliano coinvolte in progetti di ricerca, qua parliamo sostanzialmente di progetti di ricerca finanziati da fondi Horizon Europe, quindi fondi europei, enti ed aziende appartenenti sostanzialmente al comparto bellico industriale come Eni, Leonardo, Thales. Chiederemo sostanzialmente all'Ateneo di mantenere fede a questi impegni e di renderci anche conto di quello che è stato fatto effettivamente per fare in modo che qualsiasi rischio, ripeto, di compromissione e complicità del nostro stesso Ateneo con questo tipo di realtà adiuvanti il genocidio in corso in Palestina siano state prese e anche che vengano, vorrei dire, comunicate in maniera chiara e trasparente.